Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. Giunsero in vista della casa. Era una copia del bungalow che Adela aveva lasciato. Congestionata, rossa e stranamente severa, Mrs. Moore apparve seduta su un divano. Non si alzò quando entrarono, e fu una sorpresa che mise in fuga le angustie di Adela. «Eccovi qui, di ritorno», fu il suo unico saluto. Adela si sedette e le prese la mano. Lei la ritrasse, e la ragazza sentì che Mrs. Moore provava per lei la stessa ripugnanza che lei provava per gli altri. «Stai bene? Avevi l'aria di stare benissimo quando sono uscito», disse Ronnie, cercando di parlare senza irritazione. Ma le aveva raccomandato di fare buona accoglienza alla ragazza e non poteva fare a meno di sentirsi contrariato. «Sto benissimo», disse lei gravemente. «Per dire tutto, ho guardato il mio biglietto di ritorno. È valido per tutti i piroscafi, sicché ho molta più scelta di quanto pensassi. Possiamo parlarne più tardi, no? Può darsi che Ralph e Stella vogliano sapere quando arrivo. Abbiamo tempo da vendere per tutti questi progetti. Come trovi la nostra Adela? Conto proprio che mi aiutiate a uscire da tutto questo. È una tale benedizione essere di nuovo con voi. Gli altri sono estranei», disse in fretta la ragazza. Ma Mrs. Moore non mostrava nessuna intenzione di rendersi utile. Emanava da lei una specie di risentimento. Pareva che dicesse: «Ma che proprio abbia il destino di essere seccata?» La sua cristiana tenerezza era scomparsa, o si era trasformata in severità, in una giusta irritazione contro il genere umano. Non aveva mostrato nessun interesse per l'arresto di Aziz, non aveva quasi fatto domande, e quell'ultima spaventosa notte del Mohurrim, quando si era temuto un attacco al bungalow, si era rifiutata di lasciare il proprio letto. «So che non è nulla, devo essere ragionevole e cerco di esserlo», continuò Adela lottando di nuovo contro le lacrime. «Non me ne importerebbe se fosse accaduto in qualunque altro posto, ma veramente non so dove sia accaduto». Ronnie credette di aver capito che cosa lei intendesse. Non poteva identificare né descrivere quella particolare grotta. Anzi, quasi rifiutava di lasciarsi chiarire le idee su questo punto, ed era noto che la difesa ne avrebbe approfittato nel corso del processo. La rassicurò. Si sapeva che le grotte Marabar erano tutte uguali, tant'è vero che in avvenire sarebbero state numerate progressivamente con la vernice bianca. «Sì, sì, voglio dire questo, non esattamente però, ma c'è sempre quell'eco che continuo a sentire». «Come? Cosa dici dell'eco?» domandò Mrs. Moore, prestandole attenzione per la prima volta. «Non riesco a liberarmene. Non credo che ci riuscirai mai». Ronnie aveva insistito con la madre che Adela sarebbe arrivata in uno stato morboso, e tuttavia lei si stava comportando con vera e propria cattiveria. «Mrs. Moore, che cos'è quest'eco? Non lo sai? No, che cos'è? Oh, ditemelo! Lo sapevo che voi potevate spiegarmelo. Per me sarà un tale conforto. Se non lo sai, non lo sai. Io non posso dirtelo». «Mi pare che siate un po' scortesi a non dirlo». «Oh, dirlo, dirlo, dirlo!» esclamò la vecchia signora con amarezza. «Come se si potesse dire tutto! Ho passato la vita a dire o ad ascoltare parole. Ho ascoltato troppo. È ora che mi si lasci in pace». «Non per morire», soggiunse con stizza. «Senza dubbio vi aspettate che muoia. Ma quando avrò visto te e Ronnie sposati, visto gli altri due e visto se vogliono sposarsi, allora mi ritirerò in una grotta tutta per me». Sorrise per riportare quella frase nella vita di tutti i giorni e accrescerne così l'amarezza. «In qualche posto dove nessun giovane verrà a far domande e ad aspettare risposte. Uno scoglio». «D'accordo, ma nel frattempo si avvicina un processo», disse il figlio con veemenza, «ed è opinione generale che sia meglio farci animo e aiutarci l'un l'altro invece di molestarci. Hai l'intenzione di parlare in questo modo sul banco dei testimoni?» «Perché?» dovrei salire sul banco dei testimoni? Per confermare certi punti delle nostre prove. Io non ho niente da spartire coi tuoi ridicoli tribunali, disse lei incollerita. Non voglio esserci trascinata, a nessun costo. Non voglio neanch'io che vi sia trascinata. Non voglio che ci siano altri guai per colpa mia, esclamò Adela, e tornò a prenderle la mano, che tornò a ritirarsi. La sua testimonianza non è affatto indispensabile. Credevo che volesse farla. Nessuno ti biasima, mamma, ma resta il fatto che tu hai abbandonato la partita alla prima grotta e hai incoraggiato Adela a continuare da sola con lui, mentre se ti fossi sentita abbastanza bene per andare avanti anche tu, non sarebbe successo niente. Lui aveva organizzato tutto, lo so, ma tu sei caduta nella sua trappola proprio come Fielding ed Anthony prima di te. Scusa, scusa se ti parlo così franco, ma non hai nessun diritto di prendere quell'aria di sprezzo verso i tribunali. Se stai male è un altro conto, ma visto che hai tutto l'aspetto di stare benissimo, come del resto affermi, credevo che volessi collaborare anche tu. Lo credevo proprio. Male o bene che stia, non ti permetterò di tormentarla, disse Adela, alzandosi dal divano e afferrando Ronnie per un braccio. Poi lo lasciò con un sospiro e tornò a sedersi. Ma lui fu contento che gli si fosse avvicinata e sogguardò la madre con aria di superiorità. Con lei si era sempre sentito a disagio. Non era affatto la cara vecchia signora che gli estranei immaginavano, e l'India l'aveva rivelata. «Sarò presente al vostro matrimonio, ma non al vostro processo», gli informò lei, battendosi la mano sul ginocchio. Era diventata molto irrequieta e alquanto scontrosa. Poi tornò in Inghilterra. «Non puoi tornare in Inghilterra a maggio, l'hai detto anche tu. Ho cambiato idea». Sarà meglio che la smettiamo con questo battibecco fuori programma, disse il giovanotto, misurando in lungo e in largo la stanza. A quanto pare vuoi che ti si lasci fuori da tutto, e tanto basta. Il mio fisico, questo mio disgraziato fisico, sospirò lei. Perché non è forte? Ma perché non posso mettermi in cammino e andarmene? Perché non posso sbrigare quel che devo e andarmene? Perché mi viene il mal di capo e l'affanno quando cammino? E per tutto il tempo fai questo e fai quello, e questo va fatto a modo tuo, e quello va fatto a modo suo, e tutto è simpatia, confusione con tutti che si addossano i pesi degli altri. Perché non si può fare questo e non si può fare quello a modo mio, finché tutto sia fatto e io sto in pace? Perché poi si debba fare qualcosa, non arrivo a capirlo. Perché tutto questo matrimonio e matrimonio? Il genere umano sarebbe diventato da secoli una persona sola, se il matrimonio servisse a qualche cosa. E tutte queste sciocchezze sull'amore, l'amore in una chiesa, l'amore in una grotta, come se ci fosse qualche differenza. E intanto, per queste stupidaggini, io non posso fare quello che mi interessa. Mamma, ma che cosa vuoi? Disse lui esasperato. puoi dirlo in parole semplici? Se puoi, fallo! Voglio le carte per il mio solitario. Si accorse, come prevedeva, che la povera ragazza stava piangendo. E come sempre ecco un indiano proprio sotto la finestra, un giardiniere stavolta che stava raccattando pettegolezzi. Ronnie ne fu sconvolto e rimase qualche momento in silenzio, pensando alla madre e al suo senile modo di intromettersi. Rimpiangeva di averle chiesto di venire in India e di avere contratto con lei quel debito di gratitudine. «Beh, mia cara Adela, questo tuo ritorno a casa non è stato molto brillante», disse infine. «Non immaginavo proprio che ci riservasse questa sorpresa». Adela aveva smesso di piangere. C'era sul suo viso un'espressione straordinaria, in parte di sollievo, in parte di orrore. Ripeté: «Aziz, Aziz». Tutti loro evitavano di pronunciare quel nome. Era diventato sinonimo della forza del male e gli era l'imputato. Quella persona, la difesa. E adesso il suono di quel nome squillò come la prima nota di una nuova sinfonia. «Aziz, ho fatto un errore?» «Cara, non ne puoi più dalla stanchezza», esclamò Ronnie, non troppo sorpreso. «Ronnie, caro, Aziz è innocente. Ho commesso un errore terribile». «Beh, senti, adesso siediti». Girò lo sguardo intorno, ma c'erano soltanto due passeri che si rincorrevano. Lei obbedì e gli strinse la mano. Ronnie accarezzò la sua e Adela sorrise e tirò il fiato come se fosse appena tornata a galla. Poi si toccò l'orecchio. «Ah, ecco la mia eco. Adesso va meglio». «Bene, molto bene. Ti rimetterai completamente in pochi giorni, ma devi risparmiarti per il processo. Das è una bravissima persona e noi saremo tutti con te». «Ma Ronnie, caro, forse il processo non ci dovrebbe essere». «Non capisco che cosa stai dicendo e credo che non lo sappia nemmeno tu». «E se non è stato il dottor Aziz, bisognerebbe rilasciarlo». Come di morte imminente percorse Ronnie, disse precipitoso: «È stato rilasciato fino ai disordini del Mohram, quando si è dovuto rimetterlo dentro». E per distrarla le raccontò la storia, che era considerata divertente, Nureddin aveva rubato la macchina del Nawab Bahadur e al buio era finito con Aziz in un fosso. Erano stati sbalzati fuori tutti e due e Nureddin si era spaccata la faccia. Le grida dei fedeli avevano soffocato i loro gemiti ed era passato un pezzo prima che la polizia li salvasse. Nureddin era stato portato all'ospedale minto e Aziz rimesso in prigione sotto l'imputazione supplementare di aver turbato la quiete pubblica. «Un attimo», disse quando finì l'aneddoto, e andò a telefonare a Callender per pregarlo di passare da loro non appena avesse un minuto libero, perché Adela non aveva sopportato bene il trasferimento. Quando Ronnie tornò, Adela era in piena crisi di nervi, ma stavolta in una forma diversa. Si aggrappò a lui e singhiozzò: «Aiutami, aiutami a fare quello che devo. Aziz è buono. Hai sentito che l'ha detto anche tua madre?» «Sentito cosa?» «Che è buono. Ho commesso un tale errore ad accusarlo.» «Mamma non l'ha mai detto.» «Non l'ha detto?» domandò lei in tono ragionevole, aperta a qualunque suggerimento. «Non l'ha nominato nemmeno.» «Ma Ronnie, l'ho sentita io.» «Pura immaginazione, mia cara. È chiaro che non stai ancora bene per inventarti una cosa simile.» «Deve essere così. Ma che cosa incredibile.» «Ti assicuro, ho seguito tutto quello che ha detto fin dove si poteva seguirlo. Sta diventando molto sconclusionata.» «Ronnie, l'ha detto quando ha abbassato la voce, verso la fine, quando parlava dell'amore. L'amore, non ho capito bene, ma proprio allora ha detto: non è stato il dottor Aziz.» «Queste precise parole?» «Beh, l'idea più che le parole.» «No, no, no, no, mia cara, è tutta immaginazione. Nessuno ha fatto il suo nome.» «Ah, ecco, forse ti stai confondendo con la lettera di Fielding.» «Ah, sì, certo, è vero, è vero, è vero!» esclamò Adela con grande sollievo. Ero sicura di aver sentito il suo nome in qualche posto. Ti sono così grata di avermi chiarito questo punto. Sono proprio questi sbagli a preoccuparmi, a dimostrarmi che sono nevrotica.» «Dunque non continuerai a dire che è innocente, vero? Perché tutti i miei servi sono spie.» Si accostò alla finestra. Il giardiniere se n'era andato, o meglio, si era trasformato in due bambinetti. Impossibile che sapessero l'inglese, ma lui li fece filar via. «Tutti qui ci odiano», spiegò. «Dopo la sentenza andrà tutto bene, perché, devo riconoscerlo, accettano il fatto compiuto, ma per ora spendono soldi a palate per coglierci in fallo, e vanno proprio cercando una frase come la tua. Potrebbero sostenere che è stata tutta una macchina montata da noi funzionari. Capisci quel che voglio dire?» Mrs. Moore tornò con la stessa aria di malumore e si sedette con un tonfo accanto al tavolino da gioco. Per chiarire l'equivoco, Ronnie le domandò a bruciapelo se avesse fatto il nome dell'imputato. Lei non riusciva a capire la domanda e dovettero spiegargliene la ragione. Rispose: «No, non ho mai fatto quel nome.» E cominciò il suo solitario. Thank you. Mi pareva che aveste detto: Aziz è un uomo innocente. Ma questo era nella lettera del signor Fielding. Certo che è innocente, rispose Mrs. Moore con indifferenza. Era la prima volta che esprimeva un'opinione in proposito. Vedi, Ronnie, avevo ragione io, disse la ragazza. Non avevi ragione. Non l'aveva detto. Ma lo pensa. Che importa quello che pensa? 9 rosso sul 10 nero, dal tavolino da gioco. Pensi pure, e pensi pure Fielding, ma c'è qualcosa che si chiama prova, direi. Lo so, ma... Ho ancora il dovere di parlare? Domandò Mrs. Moore alzando gli occhi. Direi di sì, visto che continuate a interrompermi. Mamma, soltanto se hai da dire qualcosa di ragionevole. Oh, che noioso, grossolano. E come quando aveva deriso l'amore, la sua mente parve muovere verso di loro da una grande distanza e come uscendo dal buio. Ma perché? Tutto continua ad essere mio dovere. Quando caverò i piedi da tutto questo vostro terremoto? Se era lui nella grotta, se eri tu nella grotta, e avanti, e ci è nato un pargolo, e ci è stato largito un figlio, e se io sono buona, e se lui è cattivo, e se saremo salvati? E a conclusione di tutto, lei. «Sa, non la sento più tanto come prima», disse Adela, avvicinandosi a lei. «Non fate che del bene, voi. Siete così buona». «No, no, non sono buona. No, cattiva». Cattiva. Parlava con più calma e tornò alle sue carte, dicendo via via che le scopriva: una cattiva vecchia, cattiva, odiosa. Ero buona quando i bambini crescevano. E poi incontro questo giovanotto nella sua moschea. Volevo che fosse felice. Piccolo popolo, buono, felice. Non esistono, erano un sogno, ma non vi aiuterò a torturarlo per quello che non ha mai fatto. Ci sono diverse forme di male e io preferisco la mia alla vostra. Hai qualche prova a favore dell'imputato? Disse Ronnie col tono del magistrato giusto. Se è così, hai il preciso dovere di salire sul banco dei testimoni per lui invece che per noi. Nessuno ti fermerà. Uno capisce il carattere della gente, come lo chiami tu, ribatté lei con sdegno. Come se in realtà capisse ben altro che il carattere, ma non potesse dirne nulla. Ho sentito parlare bene di lui sia gli inglesi che gli indiani e ho la sensazione che non farebbe mai una cosa del genere. Un po' debole, mamma, un po' debole. Come prova? Sì, molto debole. E molto sconsiderato nei riguardi di Adela. Adela disse: sarebbe atroce se mi fossi sbagliata. Mi toglierei la vita. Ronnie si girò verso di lei. Che cosa ti avevo detto poco fa? Sai benissimo di essere nel giusto. E lo sa tutto il centro amministrativo. Sì, lui... Oh, Dio, è terribile, terribile. Io sono certa, certissima, che mi ha seguita. Ma non sarebbe possibile evitare il processo. L'idea di testimoniare mi spaventa sempre di più, e qui siete tutti così buoni con le donne, e siete tanto più potenti che in Inghilterra. Guarda Miss Derek con quell'automobile. Oh, naturalmente, non c'è nemmeno da parlarne. Mi vergogno d'averlo detto. Perdonami, Ronnie. Te ne prego. «Sì, va benissimo», fu l'inadeguata risposta. «Certo che ti perdono, come dici tu, ma ormai la causa deve essere discussa davanti al magistrato, è indispensabile. L'ingranaggio si è messo in moto. L'ha messo in moto lei. Andrà avanti sino alla fine, soggiunse Mrs. Moore. Per questa frase sgarbata, Adela fu sul punto di piangere. E Ronnie prese l'elenco dei piroscafi in partenza come un'ottima idea in testa. Sua madre doveva lasciare l'India immediatamente. Là non serviva né a se stessa né agli altri. Sandro Lombardi ha letto Passaggio in India di Edward Morgan Forster. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.